Liberi Dentro ed Uradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Mercoledì 9 giugno, buongiorno e bentornati di nuovo a tutte e tutti su Liberi Dentro ed Uradio. Io sono sempre Caterina, alla conduzione di questo programma, e qui con me c'è Antonella Cortese. Buongiorno Antonella. Buongiorno Caterina, buongiorno a tutti e bentrovati. E come sempre siamo in diretta su Lepida TV, canale 118, canale Teletricolore e anche Radio Città Fujiko alle ore 9 del mattino. La notizia di oggi è legata al lavoro, una notizia bella perché cresce il lavoro all'interno degli istituti di pena, lo leggo da redattoresociale.it, perché grazie alle maggiori risorse destinate negli ultimi anni, il numero dei detenuti alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è effettivamente aumentato. Non è andata così bene per i detenuti alle dipendenze di datori di lavoro esterni, soprattutto a causa del Covid, però purtroppo. Quindi cresce il lavoro in carcere, questo ci fa molto piacere, e a dare le dimensioni di questo incremento è la relazione al Parlamento relativa allo svolgimento del lavoro da parte di detenuti di attività lavorative o corsi di formazione professionali per qualifiche richieste da esigenze territoriali, con i dati riferiti al 2020. E ci sono diversi settori che vedono aumentare il numero di detenuti impiegati dalle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria. Pensate che al 30 giugno del 2020 i detenuti impiegati in attività lavorative erano oltre 17.000, quindi pari quasi al 32% dei presenti negli istituti di pena. Il dato più evidente però riguarda il capitolo spesa delle retribuzioni per i detenuti lavoranti alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, che negli ultimi anni è risultato in crescita, nell'ultimo anno è risultato in crescita. Caterina, abbiamo sempre parlato del lavoro come di una delle attività veramente imprescindibili per la rieducazione, come cita bene anche la nostra Costituzione, giusto? Eh sì, come cita bene la Costituzione e anche di riflesso l'ordinamento penitenziario del 1975, che considera il lavoro l'elemento fondamentale per dare concreta attuazione al dettato costituzionale. E si legge questo anche nella relazione presentata al Parlamento, che assegna alla pena una funzione rieducativa, e in questo senso l'amministrazione penitenziaria è costantemente impegnata a offrire nuove opportunità lavorative. Ricordiamo che il lavoro può essere svolto sia alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, quindi in attività agricole, di manutenzione ordinaria dei fabbricati o nei servizi vari dell'istituto, sia alle dipendenze di soggetti terzi come imprese e cooperative. Nel settore industria, per esempio, è stata stanziata la somma di circa 14 milioni di euro per l'esercizio finanziario del 2020, ma è anche cresciuto il numero di detenuti impiegati nella gestione quotidiana dell'istituto. Si pensa che al 30 giugno dello scorso anno risultavano impiegate circa 14.000 persone contro le 13.000 del 2019, quindi un incremento quasi di 1.000 persone occupate. Per quanto riguarda lo sviluppo, la gestione e la manutenzione delle colonie, dei territori agricoli presenti negli istituti penitenziari, nel 2020 sono stati stanziati 8,5 milioni di euro con quasi 300 detenuti impiegati nel lavoro. Ovviamente, come dicevo all'inizio, non fa registrare lo stesso incremento di lavoro anche per i lavoratori esterni, che proprio a causa del Covid ha mostrato questo settore una battuta di arresto rispetto agli anni precedenti. Una notizia che ci fa piacere, questa del lavoro in carcere, perché il problema del carcere è il tempo. Far passare quel tempo che una volta che si chiudono le sbarre diventa lunghissimo, veramente eterno, e il lavoro può essere un'opportunità non solo di riflessione, ma anche di riscatto sociale, di riuscita, di reinserimento. Sì, infatti Caterina, il lavoro è un po' il futuro e quindi questa è una notizia molto positiva perché aver potuto continuare, addirittura incrementare i numeri, è stato veramente importante. Però tornando un attimo alla musica, torniamo a chi? Torniamo ai Guns N' Roses con Don't Cry, e pensa che è un brano struggente, perché Don't Cry significa non piangere, composto da Axl, il cantautore principale dei Guns N' Roses, dopo che una ragazza, una certa Rose, disse al cantante di non piangere dopo avergli detto addio. Si dice che questa canzone fu composta in soli 5 minuti da Axl e gli altri la sera successiva, quindi diciamo che è un'esperienza che gli ha portato successo. Musica. Rieccoci, bentornati sulle note dei Guns N' Roses, siete sempre su Liberi Dentro e Eduradio e adesso con la mia collega Antonella la nostra finestra sul mondo si apre sull'Africa per toccare un tema ambientale. Sì, tocchiamo un tema ambientale perché l'Africa purtroppo è molto esposta da questo punto di vista. Voglio citare Awa Traoré, che è rappresentante di Greenpeace in Senegal, che dice che l'Africa non è una discarica e non può essere in balia degli interessi aziendali, facendo riferimento soprattutto alla vicenda della nave tedesca Hansa Neuburg, appartenente al colosso marittimo tedesco Hapag-Lloyd, che è stata intercettata e multata dalla dogana senegalese mentre cercava di introdurre illegalmente nel paese 25 container pieni di rifiuti di plastica, appartenenti probabilmente alla Spagna, questa cosa non è stata chiarita del tutto. Questo è quanto riferito dai media locali senegalesi e da Greenpeace Africa. In cambio della revoca del fermo della sua nave, l'armatore ha accettato di pagare una multa di 2 miliardi di franchi CFA. CFA è l'acronimo di Comunità Finanziaria Africana ed è, diciamo, la divisa, la moneta utilizzata da 14 paesi africani. Corrisponde circa a 3 milioni di euro, in effetti, e in più devono riesportare il carico a loro spese. Un'altra imbarcazione ha quindi caricato i container prima di lasciare domenica sera di qualche settimana fa ormai il porto di Dakar. Ma è una decisione che sembra un po' una novità, questa di multare e riesportare i rifiuti. Sì, guarda, è proprio così, infatti sperano che questo sia l'inizio di una serie di sanzioni che verranno comminate a chi trasgredisce. Voglio citare ancora le parole di Traoré, che dice che è scoraggiante che i paesi del nord non abbiano rispetto per le leggi che collettivamente fanno e approvano, per non parlare delle leggi dei nostri paesi che servono a proteggere le nostre popolazioni. Riconoscere la sovranità di un paese solo quando gli fa comodo, e stiamo parlando dell'Africa, è un'attitudine comune. Quando non veniamo riconosciuti, dice lo stesso Traoré, ci trasformiamo rapidamente in terre desolate che hanno continuato a cercare di trasformare per secoli. Poi c'è anche il comunicato dell'organizzazione ambientalista che fa riferimento al programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, che ha pubblicato un rapporto all'inizio di quest'anno sull'impatto sproporzionato dell'inquinamento da plastica sulle comunità e sui paesi poveri. Secondo appunto questo lavoro, questo rapporto, si è scoperto che queste comunità subiscono altissimi tassi di ingiustizia ambientale. L'Africa, come dicevamo, non può essere una discarica. E molti fanno credere che gli imballaggi in plastica possono essere del tutto sostenibili e Poi non è così perché finiscono sulle coste africane. Il governo senegalese ha infatti stabilito un buon precedente imponendo una multa così alta e ci si augura che anche altri paesi africani possano utilizzare lo stesso metro di misura, mettiamola così. E voglio soltanto dirvi che nel 2019 i rifiuti di plastica sono stati classificati come una delle sostanze più pericolose, il cui commercio multinazionale è limitato dalle convenzioni di Basilea. La categoria di sostanze pericolose poi include anche i rifiuti elettronici e nucleari, ovviamente. E quindi allora chiarisci se ci sono delle restrizioni all'uso della plastica in questi paesi. Allora, l'anno scorso il governo senegalese ha approvato una legge che vieta diversi articoli di plastica monouso, compreso i sacchetti di plastica e le tazze da caffè, nel tentativo appunto di contrastare l'emergenza ambientale rappresentata dall'inquinamento da plastica. E tieni presente, Caterina, che ogni anno il mondo produce più di 40 milioni di tonnellate di rifiuti elettrici ed elettronici, conosciuto questo fenomeno come electronic waste, una sterminata montagna di frigoriferi, computer, televisori, telefoni, insomma tutti i rifiuti delle nostre case, tostapani per dire, anche queste piccole cose, l'equivalente, tutto questo materiale, l'equivalente del peso di 7 piramidi di Cheope. I maggiori produttori pro capite sono gli Stati Uniti, l'Unione Europea e anche paesi emergenti come la Cina, che ne producono sempre di più. E dei rifiuti prodotti, solo una piccola parte, circa il 15-20%, viene riciclata con metodi efficienti e sicuri per l'ambiente. Il Ghana, paese dell'Africa occidentale, in forte crescita e nel tentativo di recuperare anche questi materiali, sta lavorando molto proprio su questa, tra virgolette, differenziata. Infatti c'è un certo mercato che si basa appunto sul recupero di questi materiali, anche se poi ci sono sterminate e immense, inquinatissime discariche di rifiuti. Grazie Antonella, quindi questo ci riporta a fare attenzione soprattutto nelle nostre scelte personali dell'uso anche degli alimenti che prendiamo, se sono in plastica, le confezioni, cercare di fare molta attenzione anche a come li smaltiamo. Ti chiedo di lanciare il disco di oggi. Restiamo con il nostro amico Mdou Mokhtar, artista Tuareg, con il brano Ashetta Kal. Bentornati sempre con noi su Liberi Dentro Edu Radio. Oggi apriamo con un tema recente, da sempre molto delicato, che è quello di violenza e identità di genere. Siccome il 17 maggio scorso è stata la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, è un tema di cui si sta discutendo anche politicamente in queste ultime settimane, siccome il DDL ZAN, cioè il disegno di legge che prevede l'estensione dei cosiddetti reati di odio per discriminazione razziale, etnica e religiosa, cioè l'articolo 604 bis del codice penale, a chi compie discriminazioni verso omosessuali, donne e disabili e che ora è all'esame della Commissione Giustizia del Senato, è stato approvato dalla maggioranza della Camera dei Deputati. Parliamo di tutto questo con il nostro Ignazio De Francesco, che oltre a essere volontario dell'AVO, che è anche islamologo ed esperto di spiritualità islamica. E Ignazio, intanto buongiorno, bentornato su Liberi Dentro. Buongiorno, grazie di avermi accolto anche oggi. Buongiorno a tutte e a tutti. La tua esperienza in carcere, in particolare alla Dozza di Bologna, ti ha portato forse a incontrare persone LGBT e qual è la posizione dell'Islam nei confronti delle persone omosessuali? Ma guarda, anzitutto devo dire che io ho avuto occasione di parlare nella sezione femminile o con persone, sì, di tendenza omosessuale oppure con persone che conoscevano questo orientamento in carcere e ho notato, mi sembra di poter segnalare che c'è dalla parte femminile un'apertura maggiore, meno un tabù. Ecco, sicuramente l'omosessualità è praticata anche dalla parte maschile dei detenuti, ma mi sembra più sottotraccia per tanti motivi. Quindi questa è l'impressione che io ho avuto. Sicuramente invece per quanto riguarda l'Islam, certo, è un problema molto, molto delicato, nel senso, qua facciamo un lavoro di informazione, quindi dobbiamo provare a dire le cose come vengono dette. Dal punto di vista dottrinale, l'Islam afferma che Dio, se c'è, ecco, se lo credono che esista, ha creato l'essere umano, uomo e donna. Quindi l'orientamento sessuale è un atto creaturale di Dio. E quindi travalicare questo confine che Dio ha posto, si dice il Corano, tutto è stato fatto a coppie, è un affronto, è un affrontare, mettersi contro il piano di Dio. Questo da un punto di vista teologico. Nella realtà, però, l'Islam riconosce che dove l'orientamento sessuale non dia scandalo, quindi che non affronti la comunità, che non sia una sfida alla comunità, quello che noi chiamiamo il coming out, tanto per intenderci, cioè uno lo dice, lo esprime, è una scelta che. Allora bisogna mantenere il segreto, solo Dio può giudicare questo orientamento, questa scelta e la comunità si deve fermare, non può giudicare i propri membri per cose che non li riguardano. E questo, devo dire, è un elemento, secondo me, di equilibrio, perché noi sappiamo che io ho vissuto tanti anni nel mondo, in paesi islamici, e so che l'omosessualità anche lì è molto diffusa. Ignazio, senti, invece, la transessualità? Ecco, la transessualità è una sfida ancora più forte. Perché, appunto, mentre nell'omosessualità la posizione è non dirlo in giro, fallo, ecco, ma non ti esponi, non fai il coming out. Nella transessualità questo non è possibile perché il corpo si trasforma, ci si sottopone a un'operazione chirurgica. E allora in questo senso il no sarebbe ancora più forte, se non che è successo, questo già un po' di tempo fa, parliamo della fine degli anni Ottanta, un ragazzo di nome Abdallah, Said Abdallah, che era studente di medicina dell'Università dell'Azhar, quindi l'università proprio religiosa egiziana, che dopo una crisi, un accompagnamento psicologico, era arrivato alla determinazione di cambiare il sesso ed è diventato Sally. Allora questa cosa ha provocato un terremoto, come potete immaginare, nell'Egitto e nel mondo islamico, per dire che questo ragazzo sostanzialmente era un peccatore davanti a Dio. Ma il mufti generale dell'Egitto, il Tantawi, disse che lui aveva diritto di farlo perché dentro di lui era sepolto il sesso femminile che doveva essere portato alla luce, cioè il sesso creato in lui da Dio doveva essere portato alla luce e quindi teologicamente ha difeso e affermato questo diritto. Bene, allora io lancerei un brano, se siete d'accordo, lancerei Levante con Tiki Bon Bon, che è praticamente un brano sulla diversità. Ciao, tu, Animale stanco, sei rimasto da solo, non segui il branco, balli il tango mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fa tiki boom boom boom. Mei, tu, anima indifesa, conti tutte le volte in cui ti sei arresa, stesa al filo teso delle altre opinioni, ti agiti nel vento di chi non ha emozioni. Mai più, è meglio soli che accompagnati da anime senza sogni, pronte a portarti con sé, giù con sé, laggiù tra cani e porci, figli di un dio minore pronti a colpirci per portarci giù con sé, giù con sé. No no no no no no, noi siamo luci di un'altra città, siamo il vento e non la bandiera, siamo noi. No no no no no no, noi siamo gli ultimi della fila, siamo terre mai viste prima, solo noi. Ciao tu, freak della classe, femminuccia vestito con quegli strass, prova a fare il maschio, ti prego insisto, fatti il segno della croce e poi rinuncia a Mefisto. Ehi tu, anima rivolta, questa vita di te non si è mai accorta, colta di sorpresa, troppo colta, troppo assorta, quella gonna è corta. Mai più, è meglio soli che accompagnati da anime senza sogni, pronte a portarti con sé, giù con sé. Rieccoci sulle note di Levante, Tiki Bom Bom, sempre su Liberi Dentro Duraggio. Stiamo toccando, vi dicevo, per l'appunto un tema molto delicato, di cui ora si sta anche discutendo politicamente, e è quello della violenza d'identità di genere, discusso ora in Senato con il DDL Zan. Ma qualche dato, stando ai dati di Antigone, al maggio 2017 sarebbero soltanto 4 in Italia le sezioni dedicate a persone LGBT. Sarebbero Belluno, Roma, Napoli e Rimini. Quindi Ignazio, chiedo sempre a te, quali passi secondo te sono primari per promuovere una cultura dell'inclusione sociale e anche del rispetto di questi diritti per le persone LGBT? Guardate, io penso che il carcere, come tante volte abbiamo detto, paradossalmente è una frontiera di civiltà, nel senso che intanto le culture, le religioni, le etnie sono molto, molto mescolate e poi si sta insieme gomito a gomito per anni. È più facile in fondo vivere in un mondo in cui si è più stranieri. Io chiudo casa mia, sto a casa mia, tu stai a casa tua, ci incrociamo per strada per andare al lavoro. Mentre il carcere, tutti questi problemi, quindi anche il problema dell'orientamento sessuale, diventa un problema sotto gli occhi di tutti. E allora dal carcere può venire davvero un messaggio di rispetto delle persone. E rispetto a questo io credo che il nostro come dire, timone rimane questo libretto, che io me lo porto sempre dietro, e consiglio a tutti di averlo sempre in tasca, chi ci ascolta fuori dal carcere, è la Costituzione italiana, per chi segue la radio, la Costituzione italiana, perché lì dice al di là degli orientamenti religiosi, dell'appartenenza religiosa, quelli che sono i principi della cittadinanza, e il principio fondamentale che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Allora, sei omosessuale, tu hai la dignità del cittadino. Se hai scelto la via della transessualità, ecco, hai fatto questo passo, tu questi diritti devono essere riconosciuti. Ovviamente questo dalla parte dei detenuti, delle persone detenute, quindi non giudicare, non disprezzare il proprio vicino. In questo mi sembra che la parte femminile del carcere, forse come dicevamo all'inizio, è un po' più aperta, un po' più clemente. Ecco. Però tutto questo da parte delle persone detenute. E poi c'è invece da parte dell'organizzazione carceraria, non sono io che lo devo dire, non ho l'esperienza per farlo, però i dati che hai citato, Caterina, ci dicono che per esempio le persone che hanno i transessuali hanno bisogno, se sono poi detenuti in carcere, vivono questa esperienza, di essere messi in una condizione appropriata per loro, in tutta sicurezza. Ecco, non deve diventare l'orientamento che la legge considera possibile una seconda punizione in carcere, non devono vivere una seconda reclusione. E quindi credo che su questo punto ci sia una grossa battaglia di civiltà, ecco, da giocare da parte delle persone detenute, da parte dell'amministrazione carceraria, di tutto il personale. Grazie, grazie Ignazio e Antonella, e lanciamo l'ultimo brano di oggi, Nomadi, io come te. Grazie, alla prossima. Se a guidare la mia mano non fosse più l'amore, ma l'avidità o qualche cosa che la presuppone, dai valichi d'Europa all'Africa sahariana, tra l'ebbrezza di un buon vino e tracce della storia umana, viaggiando a piedi scalzi tra gente senza veli, tra uomini diversi a cui non è permesso stare in piedi, lo sento ancora dentro quel battito costante, non viene dal mio petto ma da un posto molto più distante. Io come te, cercando un senso in questo mondo, trovarlo quando tocchi il fondo. Io c'è colore, non c'è razza, due occhi, un cuore, stessa faccia. Abbiamo appena ascoltato il nostro Ignazio De Francesco e ora ci ridiamo appuntamento tra poco con le nostre rubriche Oggi Parliamo Di, con il CPA di Ferrara, Sonny Boy, e Dialoghi sulla cittadinanza, dove avremo ospite Munia Elfasi, mediatrice culturale. Noi ci rivediamo domani sempre su Liberi Dentro, ore 9 Radio Città Fujiko, ore 13 Lepida TV e ore 17 Teletricolore. Mi raccomando, scriveteci redazione liberidentro@gmail.com oppure Chiesa Santissima Annunziata, via San Mamolo 2 40 136 Bologna, indirizzato a redazione Liberi Dentro. Buona giornata a tutte e tutti e ci rivediamo domani. Liberi Dentro e Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.